la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon mercoledì 18 di giugno, qui in diretta 18.37, ormai pur di levarmi un minuto c'è anche il promo della Zanzara, mi scappa da ridere, naturalmente va benissimo, ascoltate Cruciani Radio 24, tutti quelli che volete, poi ogni tanto in questi pochi minuti anche me, comunque. Allora andiamo subito dritti al punto del giorno, visto che il tempo è poco, il punto del giorno è questo: tra le proteste che leggete in questi giorni sui media, in televisioni, radio e giornali, di categorie colpite da misure contenute nei provvedimenti che i giornali con un eccesso di ottimismo dicono varati dal governo venerdì scorso, nel senso che i testi non ci sono ancora e mercoledì non c'è né il testo del decreto legge né il testo del disegno di legge della cosiddetta riforma della PA, però trovate dei bene informati che protestano per le misure che sono contenute nel decreto, a quanto pare, perché se fosse un disegno di legge campa cavallo poi in Parlamento. Trovate le proteste dei sindacati che insorgono per il taglio, pare, del 50% degli stacchi sindacali nella pubblica amministrazione. Trovate la protesta degli avvocati generali dello Stato, sono più o meno 350, qualcuno meno, perché c'è un taglio della loro retribuzione, visto che a loro, a me pare già pingue, reddito fisso come dipendente dello Stato, si aggiunge poi una parte variabile da libero professionista compreso, ma questa è una questione su cui loro dicono che non è così, le cause che non sono proprio vinte, per così dire. Ma la cosa che ha istituzionalmente maggior rilievo, visto che di sicuro non mi stupisco dei sindacati e tantomeno degli avvocati dello Stato, è invece la vicenda che ha un profilo costituzionale, che ha un profilo istituzionale e ha un profilo roventemente politico, perché tutte le volte che si parla di prerogative dei magistrati la faccenda diventa al calor bianco. Di che si tratta? Si tratta di una norma nel corpo delle misure sul pubblico impiego che toccherebbe la facoltà fino a questo momento concessa ai magistrati di restare in servizio fino a oltre i 70 anni, ed è evidente che qui stiamo parlando nel più dei casi di figure apicali alla testa di sezioni della Corte di Cassazione, uffici giudiziari e così via. Si tratterebbe, questa era l'intenzione del governo, di dire no, stop a questa facoltà. Perché noi stiamo nel decreto legge, variamo delle misure perché per accompagnare all'uscita già chi ha 65 il numero di anni previsto contributivi, per tentare di assumere dei giovani, anzi vogliamo anche, e su questo manca la norma quindi io non mi sento di giudicarlo, proporre a chi ha 5 anni ancora di versamenti da fare la traduzione in part time del suo rapporto, quindi in teoria lo Stato risparmia, anzi in pratica, sulla retribuzione, ma poi alla fine gli diamo il trattamento previdenziale come se gli ultimi 5 anni li avesse lavorati non part time ma a tempo pieno. E qui la mia domanda è, fatemi vedere il testo perché se no non capisco chi paga, paga fiscalità generale, cioè noi ancora. Però nel corpo di queste misure dice il governo, cari magistrati, non è che possiamo mantenervi fino a 75 anni in servizio. A me sembra una norma equitativa, ma tutti i magistrati che intervengono sui giornali dicono che è incostituzionale, perché attenta all'autonomia e all'indipendenza della magistratura. I giornali a loro volta un po' ci cascano, secondo me, perché parlano di prepensionamento dei magistrati, come se trattasse di una norma che li manda in pensione prima di tutti gli altri. No, è una norma, e qui finisce la mia introduzione, che intende stoppare quello che fino a questo momento è stata una facoltà concessa solo a loro. Io la vedo come un privilegio, ma magari mi sbaglio. E quindi il nostro ospite di oggi lo abbiamo scelto perché con Scienza e Dottrina ci spieghi il fondamento, o il dubbio, o il rischio, per così dire, che davvero questa norma, che a me sembra la fine di un privilegio, segni invece un intervento incostituzionale, un attentato all'autonomia e all'indipendenza della magistratura. Vi ricordo che la Corte Costituzionale già ha stoppato lo stop che il governo Monti fece, confermando quelli di Tremonti, agli aumenti automatici alla pubblica amministrazione, che tutto il resto della pubblica amministrazione ha da anni, sono stoppati gli aumenti automatici della retribuzione, ma la Corte Costituzionale disse no, quello dei magistrati continuano a valere, perché anche in quel caso, disse testualmente la Corte Costituzionale, fermare gli aumenti automatici ai magistrati è un attentato alla loro serenità, che è un presidio, la serenità per i magistrati, dell'autonomia e dell'indipendenza dei magistrati. E io commentai dicendo: perché per tutti gli altri pubblici dipendenti non è così, la serenità non viene toccata? Però la Corte ha stabilito così, quindi chiediamo al nostro ospite, che insegna diritto costituzionale dell'ordine giudiziario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Studi di Milano, quindi la professoressa Francesca Biondi, di chiarirci le idee. Innanzitutto, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi. Allora, che ne pensa di questa vicenda lei? Premesso che anch'io non ho in mano il testo del decreto legge, quindi dobbiamo ragionare, diciamo così, su indiscrezioni. Sicuramente il tema del, diciamo così, prepensionamento, del collocamento anticipato rispetto alle norme può porre qualche problema, ma io non la vedo intanto in termini di attentato all'indipendenza e all'autonomia della magistratura, quanto semmai la questione delicata è quella relativa a un problema di efficienza dell'apparato dell'amministrazione della giustizia. Perché un provvedimento che di colpo obbligasse un numero così ampio di magistrati al collocamento, diciamo così, in pensione, fuori dal servizio, potrebbe nell'immediato porre problemi di funzionalità degli uffici. Nel senso che la stessa Corte Costituzionale, in una vicenda analoga che riguardava appunto i professori universitari, disse che il legislatore senza dubbio può favorire il ricambio generazionale anticipando il collocamento, diciamo così, in pensione, ma tenendo conto dell'esigenza appunto dell'amministrazione di appartenenza di questi soggetti. Quindi bisognerebbe prevedere che il legislatore prevedesse o, diciamo così, una misura un pochino più graduale e quantomeno accelerare, perché c'è il grosso problema appunto della copertura degli incarichi direttivi o semidirettivi, che generalmente sono, diciamo così, coperti da magistrati con un'anzianità maggiore. Dovrebbe il legislatore fare anche in modo che il Consiglio Superiore della Magistratura procedesse alla sostituzione con maggiore celerità. Ecco, che forse secondo me sarebbe la vera soluzione funzionale piuttosto che temere la sostituzione. Però io le faccio una controobiezione, perché nel decreto pare, a fronte delle proteste che erano partite, delle pronunce dell'ANM, eccetera, eccetera, eccetera, pare che nel testo del decreto il governo già abbia inserito, pare, non lo sappiamo, vedremo, una norma transitoria che in realtà dà tempo esattamente ai magistrati sopra i 70 anni che ricoprono incarichi apicali alla testa di uffici direttivi di rimanere lì fino a che non c'è il sostituto, e addirittura si parla ancora una volta fino a 5 anni per intenderci. Ma le leggo, professoressa Biondi, quello che oggi dichiara la Repubblica un magistrato, Eugenia Splitzer, che presiede la sezione pugliese della Corte dei Conti. Quando il mio collega di Repubblica gli fa presente, Liana Mimella, quindi la mia collega di Repubblica, molto più autorevole di me, fa la domanda al dottor Splitzer, magistrato della Corte dei Conti, spiegandogli: ma la clausola transitoria risolve il problema? Il magistrato così risponde: no, essa è opaca, può alimentare il sospetto di possibili successioni pilotate, addirittura aumenta l'irrazionalità e l'odiosità del collegamento anticipato, perché si introducono evidenti disparità di trattamento tra magistrati di pari anzianità solo in base al fatto che svolgano o meno funzioni direttive. Mi pare che l'autodifesa, lo dico io, professoressa, lei non può essere d'accordo, corporativa del presidente della sezione pugliese della Corte dei Conti, dica che il problema non è quello della copertura degli uffici apicali o giudiziari, cioè l'efficienza, massima efficienza che ovviamente bisogna preservare della macchina della giustizia. E il fatto che anche in quel caso sarebbe odioso, come tu sì, che sia l'ufficio apicale e gli altri no e ne devono andare prima. Che risponde? Ma io rispondo ricordando appunto le parole della Corte Costituzionale, che in una vicenda analoga ricordò appunto che il problema è quello delle, non riguardava i magistrati effettivamente, ma i professori universitari, e disse che è necessario bilanciare le esigenze dell'efficienza dell'amministrazione della giustizia con il ricambio generazionale, consentendo all'amministrazione di accogliere o meno la richiesta del dipendente di rimanere in ruolo, riguardava il trattenimento in ruolo. Nel caso dei magistrati sarebbe inopportuno che il singolo magistrato, diciamo, che il Consiglio Superiore della Magistratura potesse di volta in volta rifiutare il trattenimento in ruolo, perché questo effettivamente potrebbe prestarsi a qualche discrezionalità. Certo, l'obiezione è: ci sarebbe un trattamento diseguale tra magistrati che ricoprono incarichi direttivi e quelli che non lo ricoprono. La questione effettivamente è dubbia sotto questo profilo, evidentemente però il legislatore deve trovare un punto di bilanciamento tra le varie esigenze, non si può certo accontentare tutti. Ma adesso abbiamo 60 secondi di informazione stradale. Io veramente però poi adesso le faccio una domanda, perché i più dei messaggi, come può immaginare, che arrivano sono di cittadini che questa cosa proprio non la capiscono, non la buttano giù, cioè non riescono a immaginare questo diritto quesito che viene presentato, illustrato e anche confermato dalla Corte in più pronunzie come dovere di efficienza. Ci vedono una cosa che è fuori dalla norma, che riguarda tutti, e quindi è un po' complicato. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, 16:48, primi in due secondi. Stiamo parlando della reazione dei magistrati a una norma, non abbiamo il testo del decreto, che all'inizio voleva por termine alla facoltà di rimanere in servizio fino a oltre 70 anni per altri 5. Pare che poi di fronte alla reazione ci sia una norma transitoria che dice no, ma per quelli che sono alla testa di uffici e dirigenti apicali fino a che non c'è la nomina del successore, no, e comunque si può andare avanti altri 5 anni, ma i magistrati dicono no, no e no, questa roba non si tocca. Abbiamo letto oggi l'intervista su Repubblica che ho citato prima di un presidente di sezione della Corte dei Conti. Professoressa Biondi, nel caso della sentenza della Corte invece che si riferiva e che citavo all'inizio su il no allo stop agli stipendi, la parte automatica, no? Di anzianità. Sì. Ecco, anche in quel caso, però, la Corte fu esplicita. Lì parlò proprio di una cosa che la serenità era il presupposto per esercitare. Ma in realtà la questione è un po' più complessa, nel senso che quella prima decisione che riguardava gli stipendi dei magistrati non si fonde espressamente, se la si legge bene, sul principio di indipendenza della magistratura. Adesso io non l'ho sotto mano, andrebbe riletta una tesi, una sentenza molto complessa. Ma lì c'è qualcosa che non convince, perché nella successiva decisione che invece riguardava gli stipendi per esempio dei professori e ricercatori universitari, la Corte ha detto nel vostro caso, mi ci metto dentro anch'io, la questione non può essere accolta perché le due posizioni non sono comparabili, là viene in gioco il principio di indipendenza. In realtà lette bene non è proprio così la motivazione, perché nel caso dei magistrati non si basava sul principio di dipendenza ma su altre ragioni, quindi in realtà c'è stata una contraddizione, a mio avviso, nella giurisprudenza della Corte nella lettura di queste due sentenze, e da questo punto di vista mi sento di seguirla di più sulla critica rispetto a questa giurisprudenza, mentre per quanto riguarda invece gli incarichi direttivi, a parte il fatto che io questa cosa dei 5 anni non l'ho sentita, mi sembrava che il termine comunque transitorio fosse molto più breve, però noi dobbiamo renderci conto che l'efficienza della giustizia si basa anche sulla necessità che tutti gli incarichi direttivi in posizione apicale e semiapicale siano coperti, e quindi effettivamente lì c'è un'esigenza di funzionalità, per cui se noi ci trovassimo da un giorno all'altro con una scopertura di questo genere, io credo che i danni sarebbero maggiori dei benefici. Ma diciamo se noi così. Ci trovassimo su questo, non può che essere totale ragionevolezza quello che dici, di totale ragionevolezza. Ma una norma che ponesse, un po' chiudesse il gap a favore dell'età con cui si può continuare a lavorare oltre il tetto e gli anni di contribuzione minima a favore dei magistrati, ponendoci assieme a quel punto nella necessità di prodursi in nomine, che cosa c'è di così scandaloso? Perché siccome il CSM ci mette già il CSM deve essere un po' più veloce nel procedere, ecco, nel fare delle nomine, sì, quindi da questo punto di vista, però appunto anche volendo accelerare i procedimenti di scelta dei magistrati ci sono delle regole che garantiscono anche la scelta, bisogna aprire una procedura, bisogna accettare, e quindi ci vuole del tempo, evidentemente se si dovessero accumulare un numero così ampio di nomine, peraltro ricordiamoci che questo CSM è in scadenza, quindi voglio dire bisogna anche attendere, diciamo così, che il nuovo CSM entri nel pieno esercizio delle sue funzioni, per cui credo che un periodo transitorio sia quantomeno opportuno. Ma di mesi o di anni? Ma io adesso discrezionale, una certa io credo differenza. Che almeno un anno e mezzo, insomma a un certo punto però bisogna anche rendersi conto di una cosa, che esiste anche un principio di affidamento, che non possiamo, cioè questo, in questo caso riguarda i magistrati ma potrebbe riguardare qualunque cittadino il fatto che da un giorno all'altro ci siamo anche lamentati del fatto che altri dipendenti siano stati costretti a lavorare di più, eppure ci siamo lamentati del fatto che c'è un principio di affidamento su cui uno conta di programmare anche la propria vita. Sì, certo, lei però, professoressa, capisce che in un mondo nel quale e ai giovani e alle generazioni a cui abbiamo negato e continueremo a negare per un lasso di tempo ragionevolmente lungo l'inserimento in ruoli, eccetera eccetera, gli viene più naturale a chiunque immaginare che il principio dell'affidamento è il fondamento di un'equa programmazione in dignità e anche insoddisfazione delle proprie competenze accumulate con lo studio, certificate dai titoli, dai concorsi e così via, sia più facile in una società che ha i problemi che abbiamo oggi doverla rivolgere ai più giovani, non agli ultra settantenni, e lo dico con il rispetto assoluto per chi è alla testa di una sezione, di un tribunale, ci mancherebbe altro. Però è proprio duro, guardi, non ce n'è uno solo, gli leggo solo uno, ma con tutti i magistrati che ci sono hanno paura di restare senza magistrati per nominarli e farli andare avanti? No, follia. No, io non dico questo, eccetera. Dico che in generale a parte che non è vero, perché sappiamo che, devo informare a chi è a casa, che noi non abbiamo tutti i posti in organico della magistratura coperti, c'è anche questo problema, quindi questo non ce lo dimentichiamo, però è questa cosa che secondo me non si vede nelle reazioni, o si vede e siamo noi che non siamo capaci di ascoltarla perché non abbiamo il giure dentro di noi, professoressa. Ma guardi, adesso sul discorso delle pensioni forse bisognerebbe sentire qualcuno che si occupa, diciamo di così, diciamo di questi temi, anche in termini, diciamo così, un conto è risparmio economico e un conto è il ricambio generazionale, diciamo che sono due esigenze che il legislatore ovviamente si può porre come obiettivo quando interviene su questi temi, perché quando si è trattato, diciamo così, di risparmiare, per certi versi si è allungata l'età pensionabile. Qui mi sembra che invece l'obiettivo non sia quello del risparmio, ma quello del ricambio generazionale, che, ripeto, la stessa Corte Costituzionale ha affermato essere un valore, certo, che però va bilanciato con esigenze di affidamento ed esigenze di funzionalità. Un anno, due anni mi sembra un tempo ragionevole per nel momento in cui si cambiano delle regole. Posso farle un'obiezione che ci fa un ascoltatore? Sì? Nel Sacro Collegio persino lì hanno capito che per fare un papa oltre le 2-3 settimane è meglio evitare, per fare un papa. Allora io credo che, siccome stiamo parlando di alcune centinaia, però questo per dare l'idea che in ascolto, di funzionari apicali che sono oltre 70 anni, già questo devo dire che come cittadino a me non piace, però secondo me 6 mesi potrebbero andare bene, 6 mesi, 7 mesi, se parliamo di anni io continuo a pensare che il rischio, professoressa, che corriamo è che i più dei cittadini lo vedano come un privilegio, e questo però è qualcosa che non funziona, perché dopo 20 anni di dibattito pubblico in cui la politica si divide sui magistrati e i magistrati ogni volta dicono non capite l'importanza della nostra autonomia, per me è un grande rischio. Però vedremo questo testo, professoressa, e poi magari ne riparliamo con lei per capire davvero quale di queste esigenze debba prevalere. Continuate con tutti con Radio 24, grazie alla professoressa Biondi, appuntamento con me a domani. We'll be right back.